Questa casa non è un albergo. Di Nicoletta Carbone e Alberto Pellai. Questa casa non è un albergo per fare quello che vuoi. Questa casa non è un albergo per farci come vuoi. Buongiorno a voi e bentrovati anche questa settimana. Una sfida educativa su cui attivare la comunità dei genitori all'ascolto, 824 0024. Pietro Lacorte in regia la parte tecnica, Anita Panizza in redazione e il mio coinquilino Alberto Pellai. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Allora, oggi un tema molto caldo, discusso anche sui giornali, il consumo di alcol tra i minori. Una delle emergenze per cui noi adulti siamo sempre preoccupati quando i nostri figli escono durante il fine settimana, un aspetto che è andato in crescita progressiva nelle abitudini, negli usi e nei consumi dei ragazzi rispetto a 10 anni fa. Effettivamente consumano molto più frequentemente alcol, ma anche molto più intensamente, cioè con molte più bevute nell'arco di una sera. Allora, a Monza abbiamo letto, è arrivato il divieto di vendere alcolici ai minori di 16 anni, è il primo comune in Italia ad aver emanato questo tipo di divieto, ma pare che ora anche a Milano ne vogliono introdurre uno simile, ancora più restrittivo. Il decreto varrà nei locali, ma anche nei supermercati. Oggi in linea con noi abbiamo l'assessore Landi di Chiavenna. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno assessore, grazie per essere con noi oggi. Allora, insieme a lei ci occuperemo dei nostri ragazzi e Alberto vuole subito mandare un invito ai nostri ascoltatori per attivare un po' il nostro dibattito. E quindi che cosa fate come genitori per tutelare i vostri figli, ma? Ma soprattutto che cosa pensate voi come genitori di questa idea di mettere nelle nostre comunità un divieto di vendita ai minorenni rispetto al consumo di alcol, un po' come succede con il tabacco. Sui giornali abbiamo letto moltissime opinioni, quelli che per esempio gestiscono i locali da ballo dicono che non sono d'accordo, tanti rappresentanti dei ragazzi dicono non ritorneremo al proibizionismo, ma probabilmente nessuno ha sentito davvero che cosa avete da dire voi genitori. Chiediamo all'assessore che genere di reazioni ha avuto lui dopo che ha lanciato, con le interviste che sono state riportate da molti giornali, questo progetto, questa decisione di vendere, di vietare la vendita di alcol ai minori. Complessivamente l'opinione pubblica è favorevole a provvedimenti che limitino pesantemente l'utilizzo, l'uso dell'alcol nelle fasce minorenni. Ovviamente ci sono degli interessi corporativi, lobbistici, ai quali lei giustamente faceva riferimento, però ho trovato anche disponibilità da parte degli esercenti, in particolare dei gestori delle discoteche, almeno apparentemente hanno dichiarato in un incontro che ho avuto recentemente che sono certamente disposti a collaborare e cooperare. Il problema si pone se porre il limite entro i 16 anni, così come la norma nazionale già prevede per quanto riguarda la somministrazione, o come auspicabilmente sta cercando di fare, elevarlo fino a 18 anni. Negli Stati Uniti d'America il limite del consumo, della vendita e della distribuzione a 21 anni, nel resto d'Europa tendenzialmente va fra i 16 e i 18. Assessore, sicuramente su questo poi bisognerà anche investire in informazione e educazione sui giovani, proibire sì, ma anche educarli. Ma certamente sì, no, un'ordinanza non è esaustiva del problema, dobbiamo lavorare intensamente, ma questo non riguarda solo e esclusivamente le istituzioni, riguarda giustamente, come voi avete sottolineato e lanciato attraverso questa trasmissione, anche una forte collaborazione e cooperazione di educazione sociale nelle scuole e anche con i genitori. Quindi io conto da settembre di lanciare una grande e massiccia operazione di sensibilizzazione verso la città, coinvolgendo le associazioni dei genitori, le scuole e tutti coloro sostanzialmente che operano nell'associazionismo e anche nei luoghi di ritrovo, perché collaborino. Il problema è grave, lo avete giustamente sottolineato, è diventato una piaga sociale. Ci sono dati drammatici, ci sono dati che ci dicono che ormai i ragazzi a 12 anni in Italia incominciano a bere e bevono non solo birra e vino, ma bevono anche superalcolici, bevono anche prodotti qualitativamente pessimi, e ahimè si arriva al picco intorno ai 16-17 anni con una media di 4-6 bicchieri a sera. Il mix anche di alcolici e superalcolici, e ahimè inutile nascondersi dietro un dito, anche il mix con anfetamine, droghe di vario genere, sono esplosivi e tremendamente pericolosi per la salute. Quindi noi vogliamo lavorare sia dal punto di vista della sicurezza sociale, ma anche e soprattutto dal punto di vista della tutela della salute di questi ragazzi. Un'ultima domanda, assessore. Il suo provvedimento comporta perciò che in un locale, per esempio da ballo, quando un ragazzo ordina un alcolico deve mostrare il documento d'identità, e vorremmo capire anche se coinvolge per esempio i supermercati, gli ipermercati, là dove si vedono gli alcolici, se un minore va e compra un alcolico, esatto. Si comprano la bottiglia e poi se la bevono anche fuori dal locale. Il provvedimento che porto all'attenzione del sindaco Moratti nella prossima settimana, di concerto col vice sindaco Decorato, prevede il divieto di vendita, somministrazione e consumo, e adesso stabiliremo se fino a 18 o fino a 16 anni, che significa che fino all'età che si stabilirà è vietata la vendita e somministrazione, quindi in tutti i locali, esercenti in genere, negozi, supermercati, ovviamente luoghi di ballo, discoteche, e anche il consumo. E cioè il ragazzo che fosse sorpreso fuori da un bar lungo la strada a consumare alcol e non avesse ovviamente superato l'età che andremo a stabilire, sarà sanzionato amministrativamente. Questo vale per gli esercenti con una sanzione fino a 450 euro, lo stesso vale per i minori, quindi secondo il principio della responsabilità oggettiva da parte dei genitori dovranno evidentemente fare fronte a questa sanzione amministrativa. Io ho introdotto anche un meccanismo di recidiva: l'esercente che dovesse essere sorpreso nei 6 mesi successivi alla prima sanzione a violare nuovamente l'ordinanza vedrebbe sospesa la sua attività, il suo esercizio per un periodo di giorni che andremo a stabilire se questa norma troverà il consenso anche del sindaco e delle forze politiche. Assessore, io la ringrazio, anzi la ringraziamo per essere stato con noi. Naturalmente la seguiremo questo impegno che come genitori ci tocca sicuramente da vicino. Io credo che l'alleanza in questo senso sia assolutamente fondamentale: scuola, genitori, istituzioni. Assessore, buona giornata, buon sabato e soprattutto buon lavoro. Grazie, veramente grazie a tutti voi, e datemi una mano a sostenere questo progetto che è fondamentale per far passare il principio della prevenzione, stili di vita e responsabilità sociale. Buona giornata. Grazie. All'assessore Landi di Chiavenna. Alberto. Allora, genitori all'ascolto, voi cosa ne pensate di questa idea? Se un minorenne viene trovato in luogo pubblico a consumare alcol, può essere multato? Vi potreste vedere recapitare a casa una multa? E poi pensate che il divieto possa essere utile sotto i 16 anni, sotto i 18 anni? Oppure siete convinti che non è utile per niente? Scriveteci, perché lanciamo il sondaggio proprio a tutti. Vogliamo capire voi ascoltatori cosa ne pensate. Mandateci un SMS al 349-238-6666, e se avete invece storie dentro alla vostra famiglia, chiamateci all'800-24-0024. Nicoletta, ho detto tutto io. Bravo, bravo. E soprattutto vogliamo capire cosa dite ai vostri ragazzi quando escono. Mi raccomando, non bere, bevi poco. Anche perché, Alberto, ormai è chiaro che i ragazzi hanno una modalità di assunzione dell'alcol molto diversa rispetto a quelle delle passate generazioni. Bevono un alcolici uno dietro l'altro, quasi a formare un cocktail un po' esplosivo, perché l'effetto deve arrivare subito, no? Dello sballo. È questo che preoccupa. Io mi rivolgo a te come medico, come ricercatore. ricercatore, sì, perché avete analizzato questo meccanismo, questa modalità che è un po' nuova rispetto a quella del passato. Il comportamento più problematico si chiama binge drinking, che significa assumere in poco tempo numerosi bicchieri di bevande alcoliche. Questo in generale, in termine medico, se nell'arco di 2 ore si assumono dalle 4 alle 5 bevande alcoliche, il rischio poi per l'assuntore è molto molto elevato. Rispetto alle strategie che vengono seguite dai genitori, dare raccomandazioni quando i figli escono, in realtà un padre ci ha scritto e vi facciamo ascoltare che cosa ha fatto lui, e ci ha scritto proprio in relazione a questo provvedimento che è stato molto discusso sul giornale. Nella compagnia di mio figlio Luca, 16 anni, ormai è sempre più un'abitudine uscire il sabato sera per bere alcolici. Lo schema tipico dell'uscita prevede l'incontro in un bar o in un pub, e poi, dopo la mezzanotte, l'uscita prosegue in qualche locale dove si balla e si beve. A mio figlio ho imposto un limite al consumo di alcol, oltre che un'ora di rientro obbligatoria entro la quale non si può permanere fuori casa. La mia tattica per evitare che la sera beva troppo è limitare il denaro che può spendere nel weekend. In questi giorni ascoltavo il dibattito che si è fatto da più parti relativamente alla limitazione della vendita di alcolici ai minori. Bene, se proprio volete sapere la mia, io sono d'accordo. Non dovrei fare più lo sceriffo tutte le notti del sabato quando mio figlio torna a casa, e mi sembra anche giusto che una comunità civile limiti l'accesso dei minori ad una sostanza che li butta fuori di testa. Cosa ne pensate voi? 824 0024, sentiamo Marco che ci chiama da Ancona, e poi tanti sms che leggiamo, tra loro abbastanza contrastanti. Marco, buongiorno. Buongiorno. Allora, volevo dire, come genitore sono d'accordo. Sì. Come esercente di bar sono d'accordo 2 volte. Sì, bravo. Perché è un problema. Un problema è sui ragazzini. Il problema è quello, perché chi è più grande poi a un certo punto, o per il discorso patente o per il discorso, diciamo, che sono un po' più responsabili, quando crescono dai 21-22 anni in poi il discorso è diverso. Per quelli piccolini da 16-17-18 anni il problema c'è. Marco, lei come esercente, che cosa vede, che cosa le chiedono i ragazzi, come si comportano, come si avvicinano? Niente, il discorso è che loro chiedono alcolici o superalcolici. Mm. Il discorso è che al momento del rifiuto, sì, al momento del rifiuto, diciamo che si lamentano, perché è anche una cosa, è un mal costume comunque che loro comunque da bere comunque lo hanno, perché c'è altra gente, ci sono altri esercenti che lo danno. Mm. E questa è una cosa. Non è chiara nel discorso dei 16 o dei 18 anni, perché per esempio io so che ho sempre saputo che sono 18 anni e non lo do a chi è che non c'ha 18 anni. Certo. Per cui si crea anche un discorso di contrasto. L'altra cosa è che negli spazi aperti, come diciamo le discoteche all'aperto o un posto dove c'è, diciamo, una piazza così, quello che si genera è che al primo rifiuto poi loro lo ottengono, perché mandano gente con più di 18 anni a prenderlo, per cui si genera tutto un discorso... E certo, perché solitamente nelle compagnie ci sono ragazzi di tutte le età, ma d'altra parte in qualche modo qualche decisione va presa, almeno arginiamo un fronte. Sono un gestore di locale, devo fare pure il poliziotto, è anticostituzionale chiedere i documenti se non sei un poliziotto. Poi chi vuoi fare le leggi è poi chi vuole fare le leggi è nato adulto. Altri invece sms sono assolutamente favorevoli al divieto di vendite, di somministrazione degli alcolici. Alberto, ci sono 3 diverse posizioni tra voi genitori, ci state mandando moltissimi messaggi. Una assolutamente contraria al proibizionismo, deve passare tutto attraverso le funzioni educative, non si può proibire, si rischia di avere un effetto boomerang. Un secondo gruppo di messaggi che invece dice siamo d'accordo su tutta la linea. Un terzo gruppo di messaggi che invece dice multare il gestore del locale che vende alcol ai minorenni, ma non multare i minorenni, perché la famiglia alla fine si troverebbe poi penalizzata 2 volte. È chiaro che queste multe le devono pagare i genitori, e quindi la corresponsabilità finisce insomma dentro alle mura di casa, da mamma e papà, quando loro sono lontani, non stanno vedendo i figli che bevono, e quindi non sanno realmente cosa stanno facendo. Infatti c'è scritto, Ale ci scrive, non multe i ragazzi che pagano le famiglie, ma servizi sociali che costino loro. Serena da Udine, buongiorno. Buongiorno. Io sono molto favorevole a questa cosa. Sì, lei ha figli, Serena, mi scusi. Sì, ne ho due, però non sono ancora in età. Va bene, ma si preparano, i figli crescono così, sì, infatti, rapidamente che... Infatti. Io sono convinta che comunque le famiglie manchino per il fumo, manchino per le droghe, manchino per l'educazione, per il rispetto e per il bere. Sì. Questa è una cosa, perché comunque è vero, la società è cambiata, è vero, bisogna lavorare, è vero, non si riesce ad arrivare alla fine del mese, però secondo me se uno vuole fare un figlio lo deve seguire. E per questo, ragazzi, adesso, a mio avviso, io ho 36 anni, non mi reputo giovanissima, non mi reputo neanche, non mi è successo niente di che. Ho fatto le mie birichinate come tutti e penso, però i miei genitori, nonostante avessero avuto i loro problemi eccetera, mi hanno dato 4 cose fondamentali che mi sono servite anche a 16 anni, anche a 18 anni. Certo. Anche se c'è questo periodo degli ormoni, del cambiare, tutto, cioè tutto lo sviluppo, come è successo a me, succederà anche ai miei figli. Logico, è un terno all'otto, però secondo me sono le famiglie che in questo momento mancano, perché i ragazzi vengono parcheggiati. Allora Serena, voglio leggerle uno dei tanti messaggi che stanno arrivando, che Alberto giustamente ha diviso, no? Quasi in 3 partiti. Ci scrive: sono abruzzese, Sandro da Chieti, qui ti insegnano a bere praticamente dalla nascita, a tavola, durante i pasti, tutti i ragazzi che ho visto esagerare vedevano l'alcol come trasgressione, solitamente gli era proibito a casa, c'è da pensare prima di proibire. E un altro ascoltatore, e sicuramente su questo Alberto si attiverà, ci scrive: occorre chiedersi perché vogliono bere. Allora Serena, le rubo ancora un minuto per diventare un po' commentatore anche lei della nostra trasmissione. Che cosa ne pensa di queste due posizioni? Anche perché Serena, lei abitando a Udine, lavora in un territorio, vive in un territorio che è ad alto rischio per i consumi alcolici, non solo tra i ragazzi ma anche tra le persone adulte. Certo, ma io ho una sorella, ho un fratello che hanno 10 anni più di me. E dico, magari le femmine sono un po' più tranquille, anche se invece si è visto anche in questo periodo che insomma le ragazze sono peggio dei ragazzi per certe cose, no? Però diciamo, io rimango dalla mia opinione che sì, io ho sempre visto sulla mia tavola il taglio di vino, se vogliamo chiamarlo così, sì, in tavola, a pranzo e a cena. Ma non per questo, mio padre, per dirle, era una persona che beveva molto. Ma non questo mi ha detto fallo anche tu. Certo. Comunque ho visto delle situazioni. Questo non voglio dire che uno, perché ha uno in famiglia, può essere che diventi alcolizzato o non lo diventi assolutamente, diventa segno. Io bevo. Se devo bere una birra, bevo una birra. Ma so come è andato ad arrivare. E lo sapevo già quella volta. Sono andata in discoteca anch'io. Ma che orari ci sono in queste discoteche? Ma perché siamo arrivati a questo? Perché le discoteche non sono più aperte il pomeriggio? Tu dici, uno può bere pomeriggio, può bere anche la sera, ma è diverso, un controllo diverso che possono fare i giovani. Io penso adesso, mia madre poteva controllarmi il pomeriggio, veniva a prendermi, non mi aveva mai fatto, perché a me non interessava andare per trasgredire, non so come dirla. Potevo bere, sì, una coca e whisky, faccio un esempio, ma non mi interessava. Perché... Forse c'era più moderazione, non lo so. Comunque Serena, io la ringrazio per essere stata con noi. Andrei a Demetrio che ci chiama da Treviso. Buongiorno Demetrio. Buongiorno. Favorevole o contrario? Ma da Verona. Da Verona, va bene, da Verona. Bellissima città. Io sono figlio di gestori di locali praticamente. Sì? Vorrei dire che sono invece molto favorevole, perché così si eviterebbero tante discussioni al bar. Perché anche noi tante volte, come gestori seri, con una certa morale insomma sul rapporto con i ragazzi minorenni, cerchiamo di disincentivare la vendita di alcolici ai minorenni. E sarei favorevole al provvedimento perché così si eviterebbero discussioni, liti, perché tante volte quando si rifiuta di dare da bere a dei ragazzi minorenni, purtroppo non si sa perché sono diventati, sono sì violenti, maleducati ovviamente, perciò sarebbe un grande aiuto per i gestori. Però nello stesso tempo dico anche che bisognerebbe interrogarsi sul problema dei ragazzi, perché bevono in maniera così smodata e anche male, sinceramente, bevono molto male. Lì direi che bisognerebbe intervenire anche sui genitori, che magari potrebbero fare essere genitori più severi. E i ragazzi, io vedo nei miei locali ragazzi che vengono alle 2, alle 3 di notte in giro a bere, cioè ragazzi minorenni di 16 anni che girano fino alle 2, alle 3 di notte. Io penso che un ragazzo quando ha 16 anni dovrebbe andare a starsene a casa, essere a casa alle 11. Invece i genitori, molti genitori se ne sbattono, perché fa comunque comodo non avere questo peso, cioè il peso dell'educazione. E l'educazione vorrebbe dire sì, comportarsi bene, ma anche insegnare i rischi del bere e anche, perché no, bere meglio. Bere meglio. Grazie Demetrio. Siamo tornati insieme, alcol e minore, stiamo commentando anche queste proposte che mirano a vietare la vendita e il consumo di alcol, vendita, somministrazione e poi consumo, come ricordava l'assessore Landi di Chiavenna. Molti dei nostri ascoltatori dicono sì, è vero, ma bisogna che le famiglie lavorino, bisogna in qualche modo aiutare, educare i ragazzi, capire perché bevono. Alberto, bisogna in qualche modo tutelarli, e sicuramente comunque il consumo di alcol porta con sé dei gravi rischi, non solo per la salute dei ragazzi, l'abbiamo affrontato tante volte nel programma di Essere Benessere, i ragazzi non sono pronti, soprattutto le ragazze, no, a metabolizzare l'alcol fino ai 16-17 anni di età, ma per tutto quello che l'alcol, il consumo di alcol porta con sé, pensiamo agli incidenti stradali. Insomma, ti ho servito la palla per presentare il nostro prossimo ospite, che è il dottor Salvati, presidente della Fondazione ANIA per la sicurezza stradale. Buongiorno dottor Salvati. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Oggi il suo contributo è particolarmente importante perché è partito proprio un nuovo giro, diciamo così, della vostra campagna Guido con Prudenza, che ha molto a che fare col tema di cui parliamo oggi, cioè la riduzione del rischio alcol correlato negli adolescenti. Di cosa si tratta? Cos'è il vostro progetto? Cosa fa? Che risultati vuole ottenere? Innanzitutto noi, come fondazione voluta dagli assicuratori, abbiamo come obiettivo ridurre le vittime della strada riducendo gli incidenti. È per questo che siamo così concentrati sul tema dell'alcol, perché l'Istituto Superiore di Sanità stima che oltre il 30% degli incidenti siano dovuti all'effetto di alcol e droghe. Quindi dobbiamo avere le idee chiare sui termini del problema, che è drammatico e inquietante. Io ho sentito tutti gli interventi, sono d'accordo con tutti su una cosa, poi mi permetterò di sottolineare. Facciamolo ora prima che ci scappi di mente. Sì, il problema è questo. Credo che non si può non essere d'accordo con tutti gli interventi che sono stati fatti nella vostra ottima trasmissione, dall'assessore agli intelligenti ascoltatori. Il tema vero è, bene, facciamole applicare queste cose. Io ho solo da fare all'assessore Landi di dire due cose. Uno, molti complimenti, siamo totalmente d'accordo con lui. Secondo, lo faccia applicare. Qui io richiamo sempre in questo benedetto paese quello che è successo per il fumo. Tutti hanno protestato, proibizionismo, ma come non posso fumare, i gestori dei locali, il ministro è andato avanti e siamo diventati il secondo paese più virtuoso al mondo dopo l'America. Questa è la linea, ci sono le norme, facciamole applicare, non facciamo che fra 3 mesi rifacciamo un'altra norma che vieta anche di dare l'alcol ai poppanti. Questo è il punto italico, ci sono le norme. L'assessore Landi a Monza la faccia applicare per 3 mesi e vedrà che gli italiani gestori e bevitori si mettono in riga, perché siamo fatti così. Guido con Prudenza discende esattamente da questo, è un progetto che da anni portiamo avanti con la polizia stradale, ha dei buoni successi, ci dice delle cose sulle quali bisogna ancora lavorare, è fatto in questo modo. A luglio e a dicembre noi andiamo, ripeto, insieme alla polizia stradale fuori delle discoteche, quelle diciamo più al top, quindi costiera Adriatica, costiera Campana, Gardesana, Brescia e dintorni, eccetera. Siccome sappiamo che il pubblico giovanile, come è stato giustamente detto, è un pubblico molto difficile da afferrare, noi cerchiamo di mettere insieme prevenzione, motivazione e repressione. La cosa concretamente si svolge così: fuori all'ingresso della discoteca persone del nostro staff distribuiscono ai ragazzi dei volantini, dei gadget, li sensibilizzano sul rischio del bere e del bere e guidare, e li invitano, come è nei costumi anglosassoni, dove, parliamoci chiaro, si sballa ancor più che in Italia in questo momento, però non ci si mette alla guida. Li invitano a disegnare il Bob. Il Bob è il ragazzo che, siete in quattro, benissimo. Lui non beve. Volete a tutti i costi bere, scegliete un amico che individuiamo con un braccialetto, con un cappellino, con qualcosa. Lui per quella sera non beve e riporta tutti sani e salvi a casa. Ma la motivazione non basta, bisogna essere chiari, ci vuole anche la repressione. D'accordo con noi, la polizia stradale sull'area dove ci sono queste discoteche esaspera i controlli. Se trova il Bob sobrio, regala biglietti della discoteca gratis che noi mettiamo a disposizione per la settimana successiva. E se non li trova sobri, sono guai seri, confisca dell'auto, ritiro della patente e multa pesante. La cosa funziona, dobbiamo farla funzionare ancora meglio evidentemente, e qui ci vuole la cooperazione di tutti, compresi i gestori delle discoteche. Ecco, questo è Guido con Prudenza, luglio e dicembre, a dicembre ovviamente per le feste natalizie in sostanza. Certo. Beh, è un'iniziativa che rassicura anche noi genitori. Gianni dalla provincia di Udine, sentiamo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Gianni, lei la conosceva Guido con Prudenza? Ma ne avevo sentito parlare. Io cosa ne pensa? Sono attento a questa cosa, anche perché come diceva la sua collega ho bevuto come molti, non dico come tutti, in gioventù. Ho avuto un locale per molti anni, un locale direi potrei chiamarlo notturno anche se non era una discoteca, frequentato da moltissimi giovani che bevevano anche molto. Ho notato però in questi anni, adesso lavoro in un pronto soccorso, per cui ho avuto una parabola un po' particolare che mi lega, se una vogliamo, storia particolare, certo. Sì, a questo argomento, oltre ad avere due figlie, quasi tre. E quindi ho notato che c'è intanto un abbassamento notevole dell'età media in cui si beve, assolutamente. Vedo i ventenni che una volta bisbocciavano nel mio locale o bevevano così per bere, adesso hanno 35 anni, va bene, però adesso vedo gli stessi ventenni, cioè i ventenni di quel tempo adesso hanno 17 anni. Si è abbassata, ma lo dicono anche i dati, vero Alberto? Assolutamente sì. I dati sì. Dicono che è diminuita l'età dei consumatori di alcol. E che in molti casi tra i 14 e i 16 anni proprio le prime uscite del sabato sera sono in luoghi di aggregazione dove ci si trova per bere alcolici. Non è che ci si trova per bere alcolici, secondo me, sai. Ci si trova e si beve. La scusa non è andiamo a bere. Andiamo. Gianni, guardi che Alberto non è un grande frequentatore, lui con quattro figli sta abbastanza a casa, è un casalingo, ma in realtà poi è proprio la compagnia, così come descrivono i ragazzi, che stando insieme si inizia, no, a questa sorta di rito che abbiamo visto può costare molto caro. Gianni, vuole dare il suo consiglio? È caduto? Gianni, è caduto? Allora noi iniziamo a salutare il dottor Salvati. Dottore. Sì, ecco, se posso vorrei però riprendere come ascoltatore, dare un contributo. Bravo. È stato detto direi da quasi tutti, ma io voglio sottolinearlo. Allora, il problema è cercare di capire bene i fenomeni, perché altrimenti cadiamo nel sociologismo che poi non porta a niente. Allora, qui ci sono due cose. C'è un problema della libertà di bere e poi c'è un problema della libertà di bere e di guidare. Noi diciamo che bisogna agire su tutti e due i lati del problema, perché parliamoci chiaro, per la libertà di bere dobbiamo affrontare certi problemi alla radice e necessitano tempo e sforzi colossali. Per la libertà di bere e di guidare possiamo fare di più, come per esempio l'assessore sta cercando di fare, di più e di meglio, nel senso che dobbiamo arrivare a far capire a tutti quelli che guidano che esiste un principio: chi beve non guida, chi guida non beve, e essere estremamente severi. Allora, le nostre idee sono chiare ed estremamente preoccupate. Aggiungo, non sono d'accordo con l'ultimo ascoltatore del trovarsi e poi si beve. No, ci si trova per bere. L'obiettivo è lo sballo. Questo risulta da tutte le analisi. Bisogna intervenire in maniera drastica in questo momento. Quelli che bevono a 16 anni, non ci illudiamo, saranno dei patentati, tanto guidano i motorini lo stesso, e poi saranno dei patentati che saranno delle bombe viventi e sarà una tragedia per loro e per i loro genitori. Quindi noi proponiamo, primo... Sì. Dottor Salvati, io devo salutarla perché devo chiudere, ma mi pare che i suoi messaggi siano stati molto chiari. La inviteremo nuovamente per accompagnare questa campagna molto importante, che quindi le raccomandazioni valgono anche però per gli adulti, perché ci sono anche adulti che bevono e che guidano. Dottor Salvati, grazie, mi spiace. invece staremo con lei ore, ma il tempo è a nostra disposizione, è terminato. Alberto, ci salutiamo. Sì, Nicoletta, e come conclusione, i nostri genitori in maggioranza sono d'accordo con il divieto di vendita di alcolici ai minorenni. Buona giornata allora da Nicoletta Carbone ed Alberto Pellai.